Basilea, 1545. Capitolo 1. Basilea, martedì grasso 1545. Non venitemi a dire che non ve l'avevo detto, compare Oporinus. Sono 2 anni che vi ripeto di tenere d'occhio quel Sebastian Münster, un allievo di Melantone, uno con 2 palle così, capito? Che mi scrive una cosmografia come non se n'erano mai viste prima, geografia e romanzo, cartografia e aneddoti. Illustrazioni e parole, una cannonata, capito? E me la fate pubblicare da quegli ammuffiti della tipografia Eric Petrina. 5.000 copie in 5 mesi, mica brustulli. Pietro Perna è un fiume di parole in un tedesco ostentato, inframmezzato l'italiano e latino, che straripa senza preavviso nella stamperia di Messer Oporinus, una delle più importanti di tutta la Svizzera. La vogliamo fare subito una traduzione italiana di questo genio o vogliamo aspettare che lo pubblichi qualcun altro? Questo cos'è? Afferra un libro da una mensola e lo sfoglia. Quasi lo stropiccia tra le mani grassocce, poi lo lancia sul tavolo, con un'espressione di disgusto. Si avvicina a Oporinus e gli cinge le spalle in modo goffo, poiché è più basso di almeno 2 spanne. Con un gesto della mano lo sottopone alla nostra attenzione. Signori, il grande Oporinus, che ha pubblicato da poco il libro che gli garantirà una fama in peritura, lo straordinario De Fabrica del sommo anatomista e disegnatore Vesalio, si interessa nello stesso tempo di una raccolta di barzellette sulla circolazione del sangue, un volume del tutto privo di illustrazioni che parrebbe arretrato al più fedele seguace di Aristotele. Lo vogliamo capire, compare, che trattati scientifici che non fanno vedere quello di cui parlano sono da cestinare. Si aggira nervoso, fra i tavoli, fregandosi le mani, mentre Polinus ci lancia sguardi sconsolati. Italiano, tra gli uomini più bassi che mi sia capitato di incontrare, se si escludono i nani veri e propri. Bestemmiatore ostinato, quasi completamente calvo e incapace di star fermo. Pietro Perna è un personaggio noto a Basilea. A quanto pare, passa di qua ogni mese per consigliare pubblicazioni, visionare novità, stroncare opere e soprattutto rifornirsi di libri proibiti, clandestini, in sospetto d'eresia, che a sua volta smercia nelle librerie di tutti i ducati, le repubbliche, gli stati e le signorie dell'Italia settentrionale. Stancaro? Mollatelo, compare Oporinus. È oltremodo noioso. Noioso, dite? La voce è piena di risentito stupore. Francesco Stancaro è un uomo coltissimo, un ebraista raffinato. Nel suo prossimo scritto farà un parallelismo tra anabattisti ed ebrei in merito alla venuta... Bellissimo, interessantissimo e colendissimo. Abbassa il minuscolo braccio e con un gesto fa piazza pulita di fronte a sé. Quanti sonnambuli pensate che compreranno questa roba? Vendere? Voi non pensate ad altro. Ma ci sono libri che è comunque utile pubblicare, danno prestigio, mettono buoni certi detrattori. Il mio unico prestigio è il seguente, comprare. Che i libri che consiglio distribuisco facciano fare le notti in bianco agli operai del Torchio. Insomma, via, gli attacchi frontali, le dispute che spaccano il capello in 4, le accuse, non piacciono più a nessuno. La parola d'ordine adesso è commistione, capito? Commistione. Quelle robe che ti lasciano col fiato sospeso, capito? E fino alla fine non capisci se si tratta di un autore eretico o ortodosso. Libri come Il beneficio di Cristo, scritto da un frate cattolico, ma pieno di temi cari alla fede d'Allemagna. Stancaro, e chi ve l'ha consigliato? Il nostro anabattista laggiù? Ha indicato me. Viene da questa parte. Una serie di rapide paccate sulla spalla. Eh già, la pensata è anche astuta. Non originale, ma astuta. Questo Stancaro vomita anatemi sugli anabattisti. Non i soliti luoghi comuni, roba seria. Bene, quale modo migliore per esporre i caratteri della vostra fede a tutta l'Italia? Uno sguardo storto. Io? Fede? Rido di gusto e gli restituisco la pacca. Voi non mi conoscete proprio. Pietro Perna si alza da terra, spolverandosi il vestito. Puttana miseria, come siete manesco, compare. Ricordo un tale a Firenze. Oporinus interviene con fare paterno, ben sapendo che quando parla dell'Italia Perna diventa inarrestabile. Coraggio, messer Pietro, veniamo agli affari. Questi signori mi stanno aspettando e voi siete passati loro davanti. Cosa vi interessa? L'italiano si aggira ancora un po' tra i tavoli e le mensole, afferrando un libro a ogni passo. Questo no, questo no, questo neanche. Questo. Schiaffeggia la copertina col dorso della mano. Mi date 20 copie di questo e 100 di Vesalio. Intanto, I rintocchi mi ricordano che è decisamente tardi. Faccio cenno a Porinus che li passerò e mi avvio all'uscita. No, aspettate! La voce stridula di Perna e i suoi passi veloci dietro di me. Come se non avesse parlato. Dico voi, aspettate! Oporinus, da tenere d'occhio il terzo libro dell'opera di Rabelais. Tradurlo e... Aspettate, no? Poi, Michele Serveto, avrete letto il suo trattato contro la Trinità. Ehi, non ve la sarete mica presa per quel fatto della fede, no? Mi raggiunge dopo mezzo miglio di inseguimento, asciugando con un fazzoletto tutta la generosa estensione della fronte. Ma come siete suscettibile, compare? Davvero voi nordici non conoscete l'ironia? Può darsi, rispondo, divincolandomi subito dalla sua mano sudata. E dovete scusarmi per quella botta di prima, ma, come saprete, i nordici non sono avvezzi a mettersi le mani addosso se non per picchiare. L'italiano si sforza di prendere fiato dopo la lunga rincorsa, mentre fatica a tenere il mio passo spedito. Mi hanno detto di voi che siete piuttosto ricco, che ne avete viste più di quanto si possa immaginare, che siete anabattista e vi interessa il commercio di libri. Riguardo all'anabattismo, mi pare di aver capito come stanno le cose. Per il resto... Mettiamola così. Se tutto il resto fosse vero, che cosa mi chiedereste? Vi proporrei un affare. Scuoto la testa. L'ultima persona che l'ha fatto è stata giustiziata pochi mesi or sono. Lasciate perdere, ve lo consiglio. Insiste nell'afferrarmi il braccio con quella mano. Non farete il superstizioso con un italiano, compare. Non si tratta di superstizione. È quello che è successo finora. Tutti quelli che si sono messi con me hanno fatto una brutta fine. Ma voi siete vivo, grida con quel tono di voce sempre troppo alto. E io sono molto fortunato. Mi si para di fronte, camminando all'indietro con le braccia allargate. Sentite almeno di cosa si tratta. Riguarda quel libro a cui ho fatto cenno prima, Il Beneficio di Cristo. Uno scritto strepitoso, intendiamoci. Le cose che dice di per sé vanno bene per i morti di sonno, capito? Una melassa sulla giustificazione per sola fede, ma quel che conta è che l'hanno scritto dei cardinali. Questo significa scandalo, capito? E scandalo significa migliaia di copie. Rialzo il collo di pelliccia dalla giubba per riparare le orecchie dal vento gelido. Parlatene con Oporinus, no? Sono certo che la questione lo interessa. Oporinus è fuori questione, compare. Il Beneficio di Cristo è un libro che interessa esclusivamente l'Italia. Non si pubblica un libro così a Basilea. E dove lo si pubblica? A Venezia. Infatti è là che l'hanno pubblicato. Ma non appena vieteranno di stamparlo, ed è questione di pochi mesi, forse l'attuale editore smetterà di farne delle copie, capito? E forse coloro che lo stanno distribuendo oggi non vorranno più averne a che fare. Voi sapete bene che a Venezia... Di Venezia non so molto. Qualcuno mi ha detto che ci sono i canali, come ad Amsterdam. Il mio accompagnatore non richiesto si blocca di colpo come preso da qualche malore. Afferra con la mano un anello che sporge dal muro, di quelli per legare i cavalli. E lentamente volta la testa verso di me. Mi state dicendo che non avete mai visto Venezia? Vi dirò di più. Questa città è il punto più meridionale che mi sia mai capitato di toccare nella vita. Con tono offeso, restando sempre aggrappato all'anello. Ma allora, tutto quello che mi hanno raccontato di voi è falso. Non solo non siete anabattista, capito? Ma neppure dovete aver visto cose così incredibili, se tra quelle non potete annoverare Venezia. E di certo non siete molto interessato al commercio dei libri, se non siete mai passato per la capitale della stampa. E infine, non potete essere molto ricco, perché nessuno che abbia i quattrini al giorno d'oggi si nega a un viaggio in Italia. Lo guardo per un attimo e ancora non capisco per quale motivo quest'uomo petulante e goffo mi risulti in fin dei conti simpatico. In ogni caso, è ora di congedarmi da lui. Mi ha già fatto allontanare di un bel po' dal posto che dovevo raggiungere. Se volete stare attaccato a quel ferro per tutta la mattina, a me sta bene. Per quanto mi riguarda, devo consegnare una lettera importante alla stazione di posta entro mezzogiorno. Aria da moribondo. Andate pure, compare. Tanto so già che accetterete la mia proposta. Non servono altre motivazioni. È la vostra occasione per vedere Venezia.